Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente dell'intervento di Mario Draghi oggi, soprattutto non sui tassi che, come ampiamente previsto, sono rimasti invariati e quindi al minimo storico. Il tasso principale è lo 0%, quello su depositi negativo al meno 0,4%. No, dicevo, parleremo di Draghi soprattutto per le sue dichiarazioni in merito al quantitative easing, quindi quando inizieranno a valutare come, con che intensità, ridurre l'acquisto di titoli di Stato che opera la Banca Centrale Europea nell'ordine dei 60 miliardi al mese. E per quello che riguarda i tempi in cui si deciderà la riduzione, sappiamo che questo significa poi stampare moneta, ma soprattutto tenere bassissimi i tassi di interesse con cui anche l'Italia si rifinanzia sul mercato, rifinanzia il suo debito sul mercato. E è chiaro che qui ci sono due spinte contrapposte: la Germania, che ha tassi negativi e ritiene che in questo modo che si stia prolungando troppo, che bisognerebbe iniziare un rientro da questo quantitative easing già dall'autunno. L'interesse opposto in questo caso è quello dell'Italia, che più avrà il beneficio di tassi mantenuti a livelli bassissimi, perché di tassi sul rifinanziamento, quindi sulle obbligazioni mantenuti bassissimi, perché c'è la garanzia della Banca Centrale Europea, potrà continuare a finanziare il suo debito a questi livelli. Draghi ha detto non c'è una data, anzi ha detto il board della Banca Centrale Europea ha deciso all'unanimità di non fissare una data precisa per quando considerare un cambio al programma di stimoli. E quindi, tra l'altro, anche il Fondo Monetario Internazionale, quasi a commento delle parole di Draghi, ha detto siamo rassicurati dall'impegno continuo della BCE guidata da Mario Draghi per garantire un aggiustamento della rotta dell'inflazione. Perché Draghi ha anche aggiunto che il quantitative easing verrà mantenuto fino a quando la BCE non vedrà un sostenuto aumento dell'inflazione. È ovvio che questo riguarda non solo lo Stato italiano quando rifinanzia il suo debito, ma vale anche per tutti gli ascoltatori e gli italiani che hanno prestiti di carattere bancario, perché un tasso di riferimento resta quello della Banca Centrale Europea. Quindi sapere che verrà mantenuto così basso e che i tassi resteranno così bassi significa anche avere qualche prospettiva in più sull'andamento dei propri tassi di interesse quando si ha un mutuo, per esempio, con la banca. Dicevo, di questo parleremo invece anche di vicende più di cronaca, se vogliamo, e meno di scenario, che riguardano però l'Italia. Da un lato la TAV, il segretario di Stato francese ieri sera, il segretario di Stato francese Trasporti, Elisabeth Borne, ha affermato che il governo di Parigi intende fare una pausa su alcuni dossier che riguardano diverse infrastrutture, tra cui l'alta velocità Torino-Lione. Non si tratta di abbandonare il progetto, ma di riflettere sull'avvenire. Riesaminiamo le spese e le risorse per non fare più promesse non finanziate. E tra l'altro ricordo che lo scorso gennaio il governo invece socialista, quello di François Hollande, e l'Assemblea nazionale francese avevano approvato in modo definitivo la ratifica dell'accordo internazionale tra Francia e Italia per consentire lo scavo del tunnel di 57 km tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne. Costo previsto per ora del progetto 8,6 miliardi. Ma ne parleremo, ripeto, nella seconda ora del programma. Uniremo a questo anche il ragionamento su Fincantieri, nel senso che, secondo quanto anticipato da Le Figaro, si va verso un assetto al 50-50 per i cantieri di Saint-Nazaire, STX, dove Fincantieri avrà il 50% e l'altro 50% dovrebbe essere in mano francese. Da quello che si capisce, avendo lo Stato già un 33, dovrebbe essere in mano francese, in mano statale francese. Devo dire che la borsa ha festeggiato, nel senso che Fincantieri bene si è mossa sulla notizia, mentre per quello che riguarda, visto che parliamo di borsa, i titoli più forti tra quelli a maggiore capitalizzazione, cito Ferragamo più 3%, Recordati più 2,70%, Buzzi più 1,70%, Ferrari più 1,60%, Italgas più 1,5%. Chi invece cede oggi è Case New Holland, CNH Industrial meno 2,90%, Exor, la controllante di CNH e di Fiat, perde il 2%, Tenaris l'1,90%, Telecom l'1,70%, Unipol Sai meno 1,5%, come Fiat Chrysler, Banca Generali perde l'1%. L'euro su dollaro a quota 1,1634, 349 238 6666, come sempre per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in diretta video dal nostro sito e in diretta video anche su Facebook. Partiamo subito con le notizie in breve. E partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Il super indice economico statunitense è cresciuto, è un indice sintetico che aggrega vari indici economici, è cresciuto a giugno dello 0,6% a 128 punti, un po' più alto delle stime, e questo fa il paio con le richieste di sussidi di disoccupazione che negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate di 15.000 unità, 233.000, a quota 233.000, ma la cosa importante è che è il livello più basso nelle ultime 9 settimane. Il dato è migliore anche in questo caso rispetto alle attese degli analisti. Della Banca Centrale Europea parleremo invece subito, ma da questo punto di vista sul fronte europeo c'è un nuovo, diciamo, round, un nuovo capitolo della Brexit, delle trattative tra Unione Europea e Gran Bretagna per arrivare a un accordo sulla Brexit. C'è stato infatti il secondo round negoziale, come si chiama in gergo, sulla Brexit. Non siamo nello stato d'animo di fare concessioni alla Gran Bretagna, ha detto il capo negoziatore europeo Michel Barnier, dato che i negoziati sono appena cominciati. Bisogna essere seri, so bene che ci sono compromessi che devono essere fatti nei negoziati, ma non siamo ancora alla fase dei compromessi. Come volete che io possa lavorare, ha poi aggiunto Barnier, se non abbiamo ancora un quadro globale di quello che la Gran Bretagna pensa sia coperto dall'accordo di ritiro dall'Unione Europea. Invece il suo omologo britannico, quello che sta conducendo le trattative per la Brexit, per il governo britannico, David Davis, ha detto: siamo incoraggiati dai progressi fatti su vari dossier prioritari, ci sono molte cose su cui essere positive, speriamo di mantenere questo modello. Quindi oggettivamente più ottimista e possibilista Davis di quanto non sia sembrato, non che sia stato negativo Barnier, ma si sta tenendo tutte le opzioni e le mani libere, nel senso non vuole vincolarsi. Per quello che riguarda l'Italia, invece, oggi è uscito a cura del Centro Studi Confindustria, è uscita la cosiddetta congiuntura flash. Il PIL italiano è stimato salire di almeno lo 0,3% nel secondo trimestre, dopo aver fatto più 0,4% nel primo. E ci sono, dice la congiuntura flash di Confindustria, le condizioni per un aumento più alto nei mesi estivi. L'Italia rimane ben ancorata alla ripresa mondiale, seppur in posizione di inseguitrice. Per l'avvicinamento al gruppo di testa resta cruciale il passaggio di una manovra d'autunno che punti sul rafforzamento degli investimenti e sul lavoro giovanile. Bassa occupazione ed emigrazione dei giovani stanno riducendo molto il potenziale di crescita del paese. Sempre in Italia, oggi il governo italiano, nel senso che il ministro alle politiche agricole Maurizio Martina e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, i due ministri hanno firmato i due decreti interministeriali per introdurre in via sperimentale per 2 anni l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. Sappiamo che su questo c'era stata una battaglia molto forte dei produttori di riso, l'avevamo seguita anche noi, che lamentavano correttamente una concorrenza sleale da parte soprattutto del riso thailandese e del sud-est asiatico. Vietnamita, in parte olandese, il Vietnam la faceva da padrone. dopo che sostanzialmente vi era stata un'apertura a livello dell'Unione Europea. Questo aveva messo in grosse difficoltà i nostri produttori di riso. Noi restiamo il primo paese produttore di riso in Europa. E il decreto firmato oggi dai due ministri, che riguarda il grano e la pasta, prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano avere obbligatoriamente indicate in etichetta il paese di coltivazione del grano e quello dove è stato macinato. Quanto al riso, in base al provvedimento devono essere obbligatoriamente indicati il paese di coltivazione, quello di lavorazione e di confezionamento. E le indicazioni dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente, in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Sulla tempistica, il governo, i due provvedimenti danno 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e anche per lo smaltimento delle etichette delle confezioni già prodotte. Su questo il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina ha parlato di un passo storico per dare ancora più trasparenza al consumatore italiano e tutelare i produttori made in Italy. Dopo aver avviato concretamente la sperimentazione dell'origine in etichetta per il latte e i suoi derivati, oggi con il ministro Calenda abbiamo firmato il decreto, i decreti che applicheranno l'origine in etichetta sperimentale per 2 anni anche per la filiera del grano, della pasta e del riso. Così l'Italia si mette alla guida di una soluzione avanzata che speriamo che anche l'Europa presto riesca a regolamentare in ambito comunitario per tutti i paesi. Per noi la bussola fondamentale è garantire al cittadino consumatore la massima informazione possibile di quel che mangia e di quel che compra. Oh, lo dico chi mi sta scrivendo al 349-238-6666. Qui non si tratta di sostanzialmente fare una campagna contro il grano, contro il riso straniero, anche perché sappiamo che per la pasta italiana si usano grani diversi, perché il nostro grano non garantisce tutte le caratteristiche e le qualità che deve avere la nostra pasta. Il problema è essere chiari nell'etichetta. Poi, voglio dire, bisogna anche informarsi. Non è una campagna di demonizzazione dei grani stranieri o dei mix o del riso straniero, però restando sul riso, che è quello dove si erano generati i maggiori problemi per colpa tra virgolette dell'Unione Europea, confermo a chi mi scrive che noi siamo il primo produttore europeo di riso. Abbiamo sostanzialmente 237.000 ettari coltivati a riso, sono 4.260 le aziende che producono riso in Italia, 1 miliardo e 580 milioni di chili, un pacco di riso su 4 venduto in Italia è straniero. Ripeto, non c'è nulla di male, basta saperlo, non si può sapere dall'etichetta. Nel 2016, per fare capire che cosa ha comportato l'apertura dell'Unione Europea, e te credo, siamo sempre sotto discorso, i paesi non produttori, soprattutto del centro-nord Europa, non hanno problemi a importare il riso vietnamita, mica va a danneggiare la loro economia. Il riso prodotto arrivato dal Vietnam è aumentato l'anno scorso del 346%. Poi mi dite che non c'è stato un effetto invasione per via dell'Unione Europea. Anche quello thailandese ha fatto più 35%. E le importazioni da Oriente, da cui arriva metà del riso che arriva in Europa, hanno totalizzato l'anno scorso il record storico di 244 milioni di chili. Allora, ancora per l'ultima notizia prima di arrivare al tema di apertura, che è la Banca Centrale Europea. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, è tornato sul tema del ruolo degli immigrati, questa volta non su quanto valgano come contributi, si parla di immigrati regolarmente presenti nel paese con permesso di soggiorno e regolarmente contrattualizzati. Boeri 2 settimane fa ricordò che i contributi valgono 38 miliardi di euro, oggi invece ha fatto il calcolo di quanto fino ad oggi gli immigrati ci hanno regalato, tra virgolette, come contributi sociali, 1 punto di PIL, a fronte del quale non sono state loro erogate pensioni. Quindi è, diciamo, il conto per quello che lui parla di regalo. un punto vale in contributi sociali un punto di PIL rispetto a non aver erogato alcun trattamento pensionistico. Gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali, ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi di euro l'anno per le casse dell'INPS. I dati dell'INPS ci dicono che gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e di altre prestazioni sociali, quindi con un saldo netto di circa 5 miliardi per le casse dell'INPS. Certo, a fronte di questi contributi netti vi saranno un domani prestazioni, gli immigrati di oggi faranno parte della platea dei pensionati del domani. Ma è anche vero che in molti casi i contributi previdenziali degli immigrati non si traducono poi in pensioni. Abbiamo calcolato che sin qui gli immigrati ci hanno, tra virgolette, regalato circa un punto di PIL di contributi sociali a fronte dei quali non sono state loro erogate delle pensioni. Vedo che alcuni si ribellano a queste parole, insomma questi sono i dati, non c'entra nulla il tema degli immigrati regolari con il tema dei flussi di migranti che sbarcano nelle coste del sud Italia. Stiamo parlando di qualunque tipo di immigrato che va appunto da chi fa la badante, la colf, chi lavora come operaio, non stiamo parlando solo dei flussi migratori che prevalentemente arrivano dall'Africa subsahariana, stiamo parlando di tutto. E Boeri ha anche aggiunto che il punto centrale è che alla lunga una situazione in cui c'è la presenza di molte persone in Italia che vorrebbero lavorare regolarmente e che non sono messe in condizione di farlo creerà un forte disagio sociale e potrà creare anche problemi per i conti pubblici, per i conti previdenziali. Qualcuno mi chiede se parleremo della vicenda che ha coinvolto invece Credit Suisse, ossia la Guardia di Finanza italiana. Ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse al centro di un'indagine per frode fiscale e vuole le polizze chiuse nell'ottobre scorso. Tra l'altro in quell'accordo Credit Suisse si è impegnata a versare 109 milioni di euro al fisco italiano, ma secondo l'accusa le polizze assicurative sarebbero soltanto un escamotage studiato dai funzionari della banca svizzera per consentire ai clienti italiani di portare denaro oltre il confine e nasconderlo all'erario. E ne parleremo perché la lista coinvolge 13.000 italiani, per cui non pochi. Primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la Banca Centrale Europea, sull'inflazione non ci siamo, ha detto Mario Draghi, la Banca Centrale Europea deve essere paziente e aggiungo io e anche la Germania deve essere paziente, visto che preme per andare a ridurre il quantitative easing, ha detto poi Mario Draghi, il Consiglio Direttivo non ha ancora iniziato a discutere del tapering, cioè di quando iniziare a ridurre l'acquisto di titoli di Stato. The inflation rate is still subdued and really there isn't any convincing sign of pickup for underlying inflation. Il tasso di inflazione resta ancora su livelli attenuati e davvero non ci sono segni convincenti di una risalita dell'inflazione di fondo. Il concetto su cui è ruotata la discussione è stato quello della fiducia. Una fiducia che nasce dal momento che sta vivendo la crescita economica, ma anche dal fatto che dobbiamo essere tenaci, pazienti, perché sull'inflazione non siamo ancora arrivati dove vogliamo. E dobbiamo essere prudenti. Siamo stati unanimi nel decidere di comunicare che non c'è alcun cambiamento negli orientamenti futuri della politica monetaria. Siamo stati unanimi anche nel non stabilire una data precisa per discutere i cambiamenti futuri. In altre parole, abbiamo semplicemente detto che la discussione dovrebbe avvenire in autunno. Dunque, ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato il corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, Alessandro Merli. Buonasera, Alessandro. Sì, buonasera a voi. E grazie anche al professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Devo dare una risposta velocissima ad alcuni ascoltatori su quanto dichiarato da Boeri. Attenzione, io capisco tutto, ma Boeri ha solo detto che gli immigrati regolari, cioè si va, voglio dire, dai moldavi a chi viene dalle Filippine, cioè non stiamo parlando, continuate a scrivermi come se Boeri avesse parlato degli immigrati che sbarcano, che vengono tratti in salvo davanti alle coste libiche. Ha detto una cosa diversa, ha detto che gli immigrati regolari che lavorano regolarmente o come dipendenti, come operai, con tutti i lavori, versano più di quanto ricevono come contributi, e te credo, e spesso però ha detto spesso non dovremmo neanche pagargli una pensione, ci sono dinamiche diverse. Qualcuno mi sta scrivendo, più di uno, ma bravo, un punto di PIL, quanto ci costano in spese sanitarie, in sicurezza? Ma sapete che non capisco l'obiezione. Costeranno quello che costa un normale cittadino italiano, cioè uno si ammala. Non è che la badante, la colf, l'operaio, per quanto immigrato, si ammali di più fisiologicamente. Non stiamo parlando delle spese sociali per gestire l'emergenza immigrazione, intesa come flussi migratori. Dopodiché, se l'unica obiezione che posso fare a Boeri è quella che abbiamo fatto 2 settimane fa, cioè se vai a parlare di questo tema nel momento in cui per immigrati stiamo intendendo tutti gli sbarchi e i salvataggi di persone che non sono regolari e non stanno versando contributi, non hanno neanche permesso di soggiorno, tendi a fare un gran casino. Questo dico perché uno confonde l'immigrato regolarmente presente che lavora e versa i contributi con le immagini che vede arrivare, diciamo, dagli sbarchi al sud. Ma se parliamo, e quindi forse il tempismo, ecco, potrebbe essere criticabile, ma poi ha detto una cosa banalissima, cioè, e non penso che si ammalino di più, non capisco perché dovrebbero costarci di più quelli regolarmente presenti di un italiano, si ammaleranno quanto un italiano in media, no? Magari anche meno in alcuni casi, non lo so. Allora andiamo avanti. Sì, qualcuno vuole criticare. Comunque, Alessandro Merli, mi sembra che la richiesta di essere pazienti Mario Draghi l'abbia fatta alla Banca Centrale Europea, ma abbia voluto anche parlare a Nuora perché suocera intendesse, cioè parlare alla Germania. Ma non c'è stata veramente nessuna pressione da parte della Germania in questo caso, tanto che Draghi ha detto che la decisione è stata unanime. È chiaro che l'opinione pubblica tedesca è sempre insoddisfatta di questa politica monetaria della BCE, ma mi sembra che Draghi abbia dimostrato anche di essere in grado di tirar dritto quando è il caso. Non mi sembra che in questo momento la Bundesbank stia premendo più di tanto per avere una restrizione della politica monetaria. Più che altro mi sembra che Draghi abbia inteso parlare ai mercati finanziari, che dopo il suo discorso di Sintra di fine giugno avevano interpretato come imminente la rimozione dello stimolo monetario, e quindi avevano spinto sia l'euro sia i rendimenti delle obbligazioni dell'eurozona verso l'alto, e quindi ha cercato un po' di correggere questa impressione. Che ci sia riuscito però non sarei troppo sicuro, visto che l'euro comunque anche dopo la conferenza stampa di Draghi ha continuato a salire, mi sembra che fosse attorno a 1,16. Sì, 1,1640. Alessandro, però perché, lo chiedono gli ascoltatori giustamente, se tutte le indicazioni che ci stanno arrivando, e mi riferisco chiaramente non solo all'Italia ma anche all'Italia, sono di una crescita più robusta delle attese nel 2017, con forse un leggero rallentamento l'anno prossimo, perché Draghi ricorda che sull'inflazione non ci siamo, la BCE deve essere paziente, cioè non si attende la BCE che da questa ripresa un po' più robusta del previsto arrivi una spinta sui prezzi? Dunque, Draghi ha ricordato che il mestiere suo e quello degli altri consiglieri della BCE è di occuparsi appunto dell'inflazione, non della crescita e neanche dell'occupazione. È vero che, come ricordavi, crescita e occupazione a un certo punto dovrebbero spingere l'inflazione verso l'alto, quindi verso l'obiettivo della BCE. Però, dice Draghi, non ci siamo ancora arrivati. Noi riteniamo che questi fattori che influenzano l'inflazione, cioè che mantengono bassa l'inflazione, siano temporanei, però non possiamo saperlo, manteniamo molta cautela su questo e quindi aspettiamo di avere altre informazioni prima di ritoccare la politica monetaria. Quindi il faro resta l'inflazione. L'inflazione in questo momento, invece che in salita come vorrebbe la BCE, è in discesa, perché l'ultimo mese è andata all'1,3 dall'1,4 del mese precedente, non ci sono segnali di pressioni inflazionistiche sui salari, per cui non vediamo che sia il momento per ora cominciare a rimuovere lo stimolo. Questo è un po' il ragionamento di Draghi. Poi lui dice anche che questi fattori dovrebbero essere temporanei e ci aspettiamo che a un certo punto la pressione della crescita, dell'aumento dell'occupazione abbia un effetto anche sui prezzi e sui salari, che quindi l'inflazione si avvii verso quel percorso che la BCE spera. Però questo per il momento non sta avvenendo, quindi mi sarebbe sembrato probabilmente prematuro, anche perché lui ha detto l'ultima cosa che vogliamo, proprio in risposta a una domanda che io gli ho fatto, ha detto l'ultima cosa che vogliamo è che ci sia una restrizione prematura delle condizioni finanziarie che faccia sì che insomma questa ripresa abortisca, ecco. Allora, professor Bruni, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei far ascoltare il passaggio cui facevo riferimento anche Alessandro Melli quando Draghi ha parlato della ripresa, e cercare di capire che cosa manca, diciamo, visto che tutti siamo concordi nel ricordare, tutti, voglio dire tutti gli istituti, nel ricordare che, e sottolineare che l'ha detto anche oggi Draghi, finalmente dopo un lungo periodo, finalmente la ripresa è robusta. Però è una ripresa un po' strana, appunto, robusta, ma non va a intaccare in questo momento salari in fase di crescita salariale, quindi prezzi. Dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dopo un lungo periodo stiamo finalmente sperimentando una ripresa robusta. L'ultima cosa che il Consiglio direttivo può auspicare è un inasprimento non voluto del contesto finanziario, perché potrebbe rallentare il processo di crescita o addirittura metterlo in pericolo. Ecco perché abbiamo mantenuto anche la parte di comunicazione, dove si lascia la porta aperta a un potenziamento degli stimoli se la situazione peggiorasse. Credo che il Consiglio direttivo abbia dato abbastanza prove del fatto che quando è necessaria una certa flessibilità per raggiungere i suoi obiettivi, è stato assolutamente in grado di fare quello che serviva. All that was needed to. Allora, professor Bruni, un po' quello che si commentava prima con Alessandro Melli, insomma, qui la ripresa è robusta, lo dice anche la BCE, tutti gli indicatori anche per l'Italia sono migliori del previsto, eppure neanche si arriva a ipotizzare l'inizio di una discussione sul tapering, cioè sulla riduzione di acquisto di titoli di Stato. Come dire, dell'inflazione e di una così ripresa dei salari non c'è neanche traccia. Ma mi lasci dire una cosa paradossale. Secondo me il fatto che l'inflazione non stia crescendo come invece sembrerebbe crescere l'economia e riprendere l'economia, in un certo senso fa piacere alla Banca Centrale Europea, è paradossale, ripeto quello che dico, perché dietro lo schermo dell'inflazione, che francamente è a 1,3 perché arriva a 1,9, non mi sembra che sia... per di più con il petrolio molto basso, l'inflazione non c'entra niente, però per fortuna, dato che noi abbiamo questa, per la Banca Centrale ha l'obiettivo dell'inflazione, l'inflazione non è ancora balanzata e loro possono graduare questa normalizzazione della politica monetaria, che è molto complicata e che, ricordiamoci, deve essere in qualche modo fare i conti anche con l'altra parte dell'Atlantico, perché altrimenti i cambi ne fanno di tutti i colori. Quindi è molto complicato il momento, tutti sanno che bisogna normalizzare le politiche, ci vorrà un po' di tempo, sono però mal coordinati, cercano di coordinarsi informalmente, forse quest'estate sarà molto importante, perché in agosto sembra che ci siano progetti seri di coordinamento fra gli Stati Uniti e l'Italia e l'Europa. E poi a un certo momento cominceranno a invertire, a fare il tapering. Devo dire però che insomma, questa grande novità che abbiamo cercato di scoprire negli ultimi 5-6 anni della politica monetaria, che fa gli annunci su quello che farà in futuro, ricordiamoci che una volta questo era del tutto proibito, e che si chiama forward guidance, cioè una guida al mercato, alle aspettative del mercato, che dovrebbe aiutare la politica a essere più e ridurre la speculazione, soprattutto. E ridurre la speculazione, ecco, non sta funzionando, cioè voglio dire, questi in realtà vivono la giornata, adesso siamo tutti disorientati, non sappiamo in effetti come usciranno da questa trappola. Il Giappone addirittura è ai limiti dell'espansionismo, gli Stati Uniti dicono un giorno una cosa, un giorno l'altra, la signora Yellen anche l'altro giorno ha fatto capire che insomma questi rialzi che si aspettano forse ci ripenserà. E Draghi ci fa aspettare un mese per dirci una regola che deve discutere ancora. Insomma, non so, in teoria uno dovrebbe dire le banche centrali sono di fronte a una grande quantità di liquidità che devono riassorbire nei prossimi, diciamo così, 5 anni. Per favore ci diano un percorso molto moderato, ma un percorso chiaro fin da adesso. Insomma, cioè, con una visione, diciamo, non alla prossima, al prossimo mese. Sì, Alessandro Merli, è interessante quanto ricorda Franco Bruni, cioè al di là dell'inflazione che diventa poi una scusa per la Banca Centrale Europea anche per andare avanti così, sono d'accordo che non siamo a una distanza siderale, non siamo in deflazione, siamo all'1,3, 1,4. E quella ottimale è considerata al 2%. Il tema è vero è come riusciamo a coordinarsi. Noi sappiamo che la Federal Reserve ha già iniziato molto, molto, molto lentamente a ritoccare i tassi, ma poi la Yellen ci ha tenuto a dire che sarà molto. Il problema è vero è come tranquillizzare i mercati con un'attività di coordinamento, perché non sfugge a nessuno che prima o poi dovrai rientrare, cioè iniziare a levare un po' d'acqua dall'acquario, farlo molto lentamente, ma nel frattempo di acqua ne è entrata tanta in questo acquario, quanta liquidità, se vogliamo usare questo esempio. Alessandro. Ma sul coordinamento delle politiche monetarie sono sempre un po' scettico, perché è stato provato più volte in passato e gli unici casi in cui si è effettivamente verificato, intanto per cominciare risalgono a molti molti anni fa, e poi comunque si trattava di casi estremi, parliamo del Plaza nel 1985, del Louvre nel 1987, l'ultima occasione di interventi coordinati sui mercati delle grandi banche centrali nel 2000, quando l'euro era andato sotto lo 0,90 con il dollaro, quindi diciamo che questi episodi sono rarissimi. Certo, possono parlarsi, però alla fine poi ognuno di loro ha un proprio mandato, sempre di più tengono conto delle ripercussioni, quelli che si chiamano gli spillover internazionali della loro azione, ma soprattutto tengono conto di quello che sta succedendo in casa propria, ed è la ragione per cui la Fed sta procedendo in modo un po' confuso, come ha ricordato il professor Bruni, facendo un passo avanti e mezzo indietro in questa normalizzazione, e la BCE dal canto suo anche lei sta procedendo con tantissima cautela. Io credo che l'episodio di Sintra abbia un po' spaventato la BCE, cioè la conferenza stampa di oggi è figlia della vicenda di Sintra, quando dell'incomprensione, diciamo. Esatto, si sono infilati tutti in una stessa direzione, che evidentemente non era quella che voleva dare Draghi, e oggi la conseguenza è che probabilmente la BCE è stata ancora più cauta di quello che non sarebbe stata. Comunque, in ogni caso, non dimentichiamoci che non ci si aspettava per oggi nessun annuncio da parte della BCE, però l'orientamento era che forse a settembre sarebbe arrivato qualcosa. Adesso Draghi parla dell'autunno, al di là insomma del calendario, che il 7 di settembre non è ancora in autunno, ma insomma sembra abbastanza chiaro che forse a settembre faranno un altro annuncio in cui si dirà che hanno cominciato a lavorarci, e magari per ottobre avremo le idee un po' più chiare. Una domanda che prego. Sì, no, è anche vero che comunque una strada la BCE l'ha tracciata, cioè ci sono questi acquisti di 60 miliardi di euro al mese di titoli che comunque si sapeva che sarebbero andati avanti fino a dicembre, quindi quello di cui si sta discutendo è quello che verrà da gennaio in poi. Insomma, certo, i mercati preferirebbero saperlo adesso, magari a settembre, che non ad ottobre, però diciamo che fino a dicembre più o meno si va avanti su questa strada, e questo già si sapeva. Allora, professor Bruni, dopo il traffico vorrei sapere un'ultima cosa, ma se tutte le previsioni economiche vedono un rallentamento di questa crescita robusta, ma un rallentamento nel 2018, non ci stiamo fasciando la testa prima del tempo? Cioè non è che se il 2018 sarà un anno di crescita più moderata rispetto a quest'anno, tutto sommato tutta questa esigenza di ridurre la liquidità e di tornare alla mentalità se interesse non si verificherà? Cortesemente la risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Focus Economia. minuti, poi passiamo alla borsa e alla vicenda Credit Suisse, che mi interessa particolarmente perché sono 13.000 gli italiani coinvolti. Però, professor Bruni, per concludere, molto chiaro il ragionamento di Alessandro Merli, il suo scetticismo sul coordinamento tra banche centrali, lo dico che mi scrive, è fondamentale in realtà, perché è chiaro che la speculazione dei mercati finanziari trova praterie laddove non c'è coordinamento, laddove non c'è chiarezza, laddove pensi che ci sia confusione a New York, che ci sia un Giappone che non sa che pesci pigliare, che la BCE sia divisa, allora lì ti infili. Se c'è, più alto è il coordinamento, meno riesci a speculare contro le banche centrali. Professor Bruni, ma non ci stiamo fasciando la testa troppo presto? Cioè, se c'è un rallentamento che è previsto da tutti gli istituti, sia come economia europea che come economia italiana, che anche come crescita globale l'anno prossimo, tutta questa esigenza di tornare ad alzare i tassi di interesse, i salari non aumenteranno tanto, la disoccupazione da noi è ancora un problema enorme, perché tutte queste spinte inflattive non riesco a vederle. Prego. Ma sull'andamento dell'economia mondiale nel 2018, francamente, credo che le previsioni siano abbastanza concordi, ma anche molto incerte. Può succedere di tutto, come quest'anno, in cui le previsioni erano diverse da come poi le cose sono andate. Quello che mi preme dire, però, è che l'eccesso di liquidità che è stato creato negli anni successivi al 2009 e poi dopo in Europa anche in seguito è un fatto grosso, strutturale, che crea distorsioni sui mercati anche con tassi di crescita normali. Sono i banchieri che rifiutano i depositi, ancora in questi mesi, quando sono abbastanza grossi, perché non sanno cosa farsene dei soldi e li mettono sulla Banca Centrale Europea pagando lo 0,4%. E i titoli sono sopravvalutati per eccesso di liquidità in molti paesi. Quindi è un problema strutturale che va eliminato nei prossimi 5 anni, bisogna dare una visione di come lo si farà e bisogna darlo in una sede internazionale, al Fondo Monetario, nel G20, come vogliamo, ma facendo vedere che c'è una concordia per fare questo a livello internazionale. È chiaro che il coordinamento, come dice giustamente Merli, è difficile e controverso, però è anche la salvezza dell'indipendenza delle banche centrali, perché se loro danno l'idea che devono coordinarsi, sono ciascuna più indipendente dai politici che gli mettono pressione in casa, e questo soprattutto agli Stati Uniti credo che dovrebbe far comodo in questo momento. Chiarissimo, grazie quindi sia a Franco Bruni che a Alessandro Merli. Andiamo adesso sulla borsa e sulla vicenda Credit Suisse. Vedo ancora molti messaggi sulle parole di Boeri, alcuni veramente non li capisco. Allora, dunque, mi scrive un ascoltatore: ma un italiano che si ammala vanta contributi sanitari personali dei suoi genitori, dei nonni, eccetera. Un immigrato, immagino regolare e regolarmente assunto, che va in ospedale, quali contributi sanitari vanta? 300 euro all'anno se regolare, zero. Allora, parliamo dei regolari, uno. Due, sa che non e un altro mi scrive: e quanto ci costano in termini di PIL gli immigrati irregolari, visto che contribuiscono a ridurre la domanda interna perché versano, fanno massicce rimesse all'estero? Ma sapete che adesso, veramente non riesco a seguire la cosa. Allora, se uno fa massicce rimesse all'estero equivale all'italiano che non spende una lira e mette i soldi sotto il materasso, cioè chi non può sapere cosa fa. Cioè, c'era l'immigrato che invece, proprio perché è immigrato, decide di investire in questo paese e acquisire un nuovo status e farsi una famiglia, c'era quello che manda tutti i soldi all'estero, ma equivale all'italiano che mi scrive e che non sta spendendo perché è incerto sul futuro e va al risparmio e tiene i soldi in portafoglio o immobilizzati. Non contribuisce nessuno dei due al PIL, cioè se parliamo di consumi. Uno, due, l'immigrato che cosa versa di contributi sanitari? Ma scusatemi, ma io vado in ospedale, mi tocco, spero di no, ma insomma, ma è chiaro che ho i contributi, che ha versato i contributi mio padre, mio nonno, li verso io, ma infatti poi i miei genitori che sono anziani avranno bisogno delle strutture sanitarie, si spera, o meglio, non glielo auguro, ma insomma, in media più di un giovane, e tutto si finanzia. Allora, ho capito, infatti io ho dei nonni che stanno qui o dei genitori che stanno qui che useranno il sistema sanitario nazionale, l'immigrato che magari è arrivato da solo o ha una moglie giovane, figli giovani, lo userà di meno. Io non capisco veramente, se parliamo di immigrati regolari che versano i contributi, quale sia il costo in più per il servizio sanitario nazionale, visto che noi siamo come italiani molto più anziani e sappiamo che più sei anziano più usi il servizio sanitario nazionale, né quale sia l'impatto sui consumi negativo rispetto a un altro italiano che i soldi li mette da parte e li risparmia. Non lo capisco veramente. Comunque, intanto saluto Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Buonasera Angelo. Buonasera. Devo andare sul GR24 e poi ci racconti di questa inchiesta della Guardia di Finanza che vuole i nomi degli italiani che hanno le polizze presso Credit Suisse in Svizzera. Noi pensavamo che tutto si fosse chiuso a ottobre, in realtà si è riaperto dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Avrei voglia di un giallo, anzi di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 alle 22, la domenica alle 16.15 alle 20.45, e dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la Guardia di Finanza ha chiesto oggi alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse, che sono al centro di un'indagine fiscale. Allora, l'indagine per frode fiscale si era chiusa, se ricordo bene, adesso chiedo spiegazioni a Angelo Mincuzzi, Sole 24 Ore, di nuovo buonasera Angelo. Si era chiusa con un accordo lo scorso ottobre in base alla quale il Credit Suisse aveva versato si impegnava a versare 109 milioni di euro al fisco italiano. Adesso però si apre un nuovo capitolo, perché la Guardia di Finanza vuole i nomi dei titolari di queste polizze. Finora ha identificato i titolari di 3.300 polizze, la maggior parte dei quali già destinatari di contenziosi degli uffici finanziari, concluse con la riscossione di circa 173 milioni di euro. La nuova richiesta riguarda gli effettivi beneficiari italiani tuttora non compiutamente identificati, che sono altri 9.950 posizioni finanziarie, e quindi polizze immagino, per un ammontare complessivo di 6.666 euro. Allora, io non capisco, ma se c'era l'accordo a ottobre, si è firmato questo accordo in cui Credit Suisse versava dei soldi allo Stato italiano, qual è la nuova contestazione della Guardia di Finanza sui i titolari di queste polizze? Allora, quello che si era chiuso era l'accordo tra il Credit Suisse AG, quindi la casa madre svizzera, perché la società italiana, il Credit Suisse Italy, non è mai entrato in questa vicenda, è del tutto estraneo. L'accordo su due fronti, cioè il Credit Suisse di Zurigo si è accordato con la procura, ha patteggiato l'accusa di riciclaggio pagando 8 milioni e mezzo di euro, e ha fatto un accordo con il fisco pagando altri 101 milioni di euro, quindi diciamo un totale di 109,5. Questo per quanto ha chiuso, diciamo, il contenzioso con la banca. Quello che è aperto ancora e che subirà gli sviluppi che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è il contenzioso con i clienti. Perché i clienti erano tantissimi, l'hai detto tu stesso prima, erano 13.000. Di questi 13.000 ne sono stati identificati 3.297 che hanno già versato al fisco italiano 173 milioni. Noi abbiamo fatto questi calcoli che leggerete domani sul Sole 24 Ore, ma ve li anticipo. Quindi sostanzialmente finora questa vicenda ha portato per il fisco, al fisco italiano, l'Italia, un incasso, facendo la somma di tutto, di 282,5 milioni di euro. Ora, si apre il capitolo forse più grande, perché riguarda appunto 10.000 clienti, e questo è un precedente. Ancora non identificati. Non identificati. Qui si tratta non soltanto di polizze vita finte, no, tra virgolette. Ecco, ma la contestazione qual è? Che queste polizze vita sarebbero un escamotage? Le polizze vita, sì, è un escamotage per non pagare il fisco, ma non sono soltanto le polizze vita nel mirino della Guardia di Finanza, perché ci sono anche i conti cifrati, nominativi italiani ancora non ben identificati, fiduciarie, persone fisiche, società italiane e straniere che comunque riconducono a soggetti italiani. Quindi c'è una pluralità di soggetti che devono essere analizzati. Quindi la Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità svizzere: diteci chi sono queste persone, chi sono i beneficiari finali di questi conti. E ripeto, questo è un precedente per l'Italia, è una cosa molto grande, perché per la prima volta viene fatta una richiesta di gruppo di così grandi dimensioni, e vedremo che cosa succederà, insomma, nei prossimi mesi. Sì, a questo punto la Svizzera, o meglio Credit Suisse per essere precisi, che cosa può opporre? La segretezza bancaria può... A questo punto, ecco, il Credit Suisse, diciamo che da questa richiesta ormai è fuori, perché appunto si è accordato con l'Italia, ha pagato. Sono i singoli clienti che possono opporsi, e sicuramente si opporranno, quindi ci saranno delle cause presso i tribunali svizzeri. Insomma, si può calcolare che se ci dovesse essere questo contenzioso, insomma, passerebbe circa un anno prima che questi nomi emergessero e potrebbero arrivare in Italia. Quindi non sono nomi che probabilmente arriveranno subito, però possono servire magari per convincere qualcuno ad aderire alla voluntary disclosure che si chiude fra 15 giorni. Eh sì, e questo è, cioè, l'altro aspetto su cui volevo arrivare, ma già mi hai risposto. Questo come si lega agli ultimi giorni, alle ultime settimane per la voluntary disclosure, quella cosiddetta, che poi vuol dire collaborazione volontaria, in cui tu collabori col fisco e dichiari la tua posizione all'estero. Quindi tu ti aspetti a questo punto, dopo il sequestro della lista clienti e questa richiesta, tempi non brevi, diciamo, quasi un anno. No, sì, i tempi potrebbero essere non brevi, anche perché la Svizzera ha ricevuto l'anno scorso altre 60.000 richieste da parte di altri paesi, soprattutto dalla Francia, quindi ha un grosso lavoro da fare. Ma probabilmente cosa succederà? Succederà che molti di questi 9.953 diranno: vabbè, aderisco alla voluntary disclosure. Ci sono ancora 15 giorni di tempo e quindi probabilmente pagheranno prima di avviare un contenzioso. Diciamo che questa richiesta alla Svizzera cade in un momento strategico, no? Proprio a ridosso della chiusura, certo, dei termini. Di una voluntary che pare non stia andando bene, come abbiamo scritto più volte. Esatto, su Sole 24 Ore, e devo dire che un po' di malizia ce la possiamo mettere, forse questa è anche una leva ulteriore per vedere se si riesce in fase finale ad accelerare l'adesione, appunto, l'adesione volontaria con il fisco italiano. Leggeremo domani il resto dell'inchiesta, grazie intanto ad Angelo Mincuzzi. Grazie a te. Noi passiamo adesso alla borsa. Borsa che ha chiuso con un calo dello 0,20% su Milano, 0,30% su Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,70%, Dow Jones meno 0,14%, euro in rafforzamento 1,16,35%, tra i titoli bene Ferragamo più 3%, Recordati più 2,70%, Ferrari più 1,80%, Buzzi Unicem più 1,60% come Italgas, e poi più staccato il rialzo di Mediolanum più 1%, ST Microelectronics più 0,70%. Tra i titoli che hanno perso invece Case New Holland, CNH meno 2,60, Exor meno 2,20, Telecom meno 2, Unipol meno 1,80, Tenaris meno 1,70, Fiat Chrysler meno 1,30%. Eleonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Dunque, partiamo anche da titoli che non trattiamo spesso, Recordati e Ferragamo, che sono i due migliori. Devo dire che oggi tutto il lusso si è mosso abbastanza bene. Sì, Recordati è dalle prime battute di questa mattina che si è mossa al rialzo, anzi in verità durante la seduta è arrivata a guadagnare ben oltre il 3%. Questo perché la società ieri ha comunicato di aver ricevuto il via libera dalla Commissione europea per la commercializzazione di un farmaco che verrà commercializzato a partire dal 2018, ma che per gli analisti e gli esperti potrebbe portare ricavi potenziali fino a 100 milioni di euro. In più, diciamo, a soffiare in poppa alle azioni di Recordati, oggi è stato anche un report favorevole di Credit Suisse che scommette al rialzo sulla società anche in vista dei conti che verranno comunicati il prossimo 27 di luglio. Per quanto riguarda invece Ferragamo, è vero che sì, che si è risvegliata e mossa al rialzo. D'altra parte, dai livelli di inizio maggio i titoli hanno lasciato sul parterre quasi il 20% del proprio valore. E questo perché gli analisti e comunque gli esperti del settore sono un po' al buio di come sta andando l'azienda, dal momento che Eraldo Poletto, che è entrato nell'agosto dell'anno scorso alla guida della società, ha deciso di non comunicare i conti del primo trimestre. A questo punto sale l'attesa quindi per la prima semestrale che verrà diffusa proprio a fine luglio, e comunque lo stesso manager nel corso dell'assemblea dei soci di primavera aveva già preannunciato che il 2017 sarebbe stato un anno di transizione. Quindi appunto proprio per questo motivo i titoli hanno sofferto da maggio a oggi, poi probabilmente oggi si sono un po' riscattati, ci sarà chi scommette che la semestrale non sarà pessima come magari era stato ipotizzato fino a qualche settimana fa. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli, devo dire gli spunti oggi non sono tantissimi, un po' di debolezza sul gruppo Fiat, l'abbiamo ricordata anche con Fiat Chrysler oltre che con Case New Holland ed Exor. Tra i migliori e peggiori, gruppo Waste Italia più 22%, Softec più 22%, Vetriva più 19,80%, Brioschi più 6,20%, il fronte opposto vede Poligrafici Printing meno 12%, Deutsche Lufthansa meno 8,60%, Poligrafici Editoriali meno 7,80%, e SIT, che era debuttante, SIT meno 7,14%. Esatto, SIT è una debuttante, anche in questo caso diciamo è stata traghettata a Piazza Affari sul mercato AIM attraverso una SPAC. Questa è infatti diciamo la settimana delle SPAC, che sono delle società a scatole vuote che vengono quotate nell'attesa poi di un'acquisizione, una fusione con un'altra azienda. E rispetto ai giorni scorsi, quando i debutti avevano diciamo registrato performance positive o molto positive come quella di Farmanutra, che era arrivata a salire di oltre il 50%, SIT oggi è stata un po' deludente, ha perso il 7%. Vediamo invece cosa farà domani mattina Sprint Italy, che è la SPAC che quoterà Gerardo Bragiotti. Allora, tra i titoli c'è oggi in positivo anche Fincantieri più 3,60%, ne parliamo dopo il traffico, perché su Fincantieri è arrivata una buona notizia, perlomeno buona giudicata dal mercato, ossia l'anticipazione di Le Figaro, ma parleremo di Francia anche per un altro aspetto, o di Francia-Italia per un altro aspetto, per la così raffreddamento, pausa di riflessione, chiamiamola così, sulla Torino-Lione. Grazie intanto a Eleonora Michieli. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. La buona notizia nel rapporto Italia-Francia riguarda la vicenda Fincantieri, uno dei più grandi costruttori cantieristici al mondo, e l'acquisizione di STX France, quindi uno dei principali costruttori di navi da crociera al mondo, oltre che di navi militari, i famosi cantieri di Saint-Nazaire, che hanno questa lunghezza di un bacino di carenaggio che permette di costruire mega navi da crociera da 220.000 tonnellate di stazza, mentre a Monfalcone non si arriva oltre le 180.000. La buona notizia, scusatemi, è che il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha detto che gli investitori italiani, incluso Fincantieri, sono benvenuti. L'accordo sarà firmato nei prossimi giorni. L'azionariato, secondo quanto anticipa Le Figaro, dovrebbe essere diviso a metà tra italiani e francesi, un 50-50. E Macron e il premier Paolo Gentiloni si telefoneranno. Questa è la buona notizia. La notizia, che poi sarà buona anche quella per chi è contro la TAV, ma io parlo degli investimenti e degli accordi, che nonostante lo scorso gennaio il governo, a quel tempo ancora di Hollande, avesse approvato e l'Assemblea Nazionale Francese in modo definitivo la ratifica dell'accordo internazionale tra Francia e Italia per consentire lo scavo del tunnel da 57 km tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, costo previsto 8,6 miliardi, finanziati per il 25% dalla Francia, 2,2 miliardi, 40% dall'Unione Europea e il 35% dall'Italia. Tra l'altro il 21 giugno scorso la TELT, che è la società italo-francese, vorrebbe dire Tunnel Alpin Lyon-Turin, che è incaricata di costruire la nuova tratta ferroviaria ad alta velocità, aveva organizzato nella sede a Lione un grande evento annunciando 81 bandi di gara, di appalto, divisi su 12 cantieri per un valore di 5 miliardi e mezzo di euro. Perché ne parliamo? Perché ieri è stata annunciata una pausa, l'ha annunciato il segretario di Stato francese dei trasporti, una pausa su alcuni dossier infrastrutturali, tra cui l'alta velocità Torino-Lione. Filomena Greco del Sole 24 Ore da Torino, buonasera. Sì, buonasera a te Sebastiano. È così, una pausa di riflessione come se i fidanzati praticamente. Sì, però infatti, in realtà... Perché di solito però... Quando ti senti dire vorrei una pausa di riflessione non va a finire bene adesso. Insomma, no. Per cui se vogliamo usare l'esempio... Bene. Però è anche vero che ci sono stati dei precedenti insomma in questa vicenda. La Torino-Lione è una vicenda che va avanti da 25 anni, quindi ha attraversato diversi diciamo governi esecutivi. Questo non ha aiutato probabilmente il sostegno in maniera chiara all'opera, però diciamo che ci sono stati già dei precedenti a questo tipo di pause di riflessione e di ripensamenti. Ma è una pausa, scusami Filomena, ma sì. È una pausa di riflessione o di ripensamento? Perché da quello che ricordo io, sì. I francesi hanno già iniziato a scavare e anche non poco nella parte, nel loro versante. L'Italia è più in ritardo sul versante, diciamo, Val di Susa. Ma vorrei capire, cioè pausa di riflessione, per uno può sì. Dire, vabbè, in questo momento non abbiamo tutti i soldi, dobbiamo pensare alle priorità francesi è una cosa, ripensamento è un'altra. Sì. Per rispondere a questa domanda è necessario secondo me fare un paio di premesse. La prima è questa, che gli scavi che ci sono stati fino ad oggi in Francia, che ci sono stati anche in Italia, dove si sono di fatto conclusi i lavori per la realizzazione di uno dei tunnel geognostici, cioè i tunnel che servono a capire com'è il terreno e se si può poi in futuro scavare, con quale modalità in sostanza. Sono tutti stati lavori preparatori poi per la grande opera e si sono di fatto praticamente quasi conclusi, vanno avanti ancora un altro po' sul versante francese. In realtà questa è la prima premessa. La seconda premessa è che quando si parla di Torino-Lione bisogna però considerare che parliamo almeno di tre cose diverse, cioè il primo progetto che consideriamo è la tratta internazionale, cioè quella di cui parlavi tu, il trattato Italia-Francia, il fatto che i governi, che le Camere, i Senati dei due paesi hanno ratificato quell'accordo, che quell'accordo è legge, che i progetti sono già in fase esecutiva. Che cosa prevede la tratta internazionale della Torino-Lione? Prevede di scavare il tunnel di base nella parte occidentale delle Alpi, laddove manca di fatto rispetto a tutto il resto dell'arco alpino. Prevede quindi la realizzazione del tunnel di base da 57 km e le due stazioni internazionali. Però la Torino-Lione non è di fatto solo questo, è anche la tratta che collega Susa a Torino, quindi la tratta italiana della Torino-Lione, e poi altrettanto la tratta francese, quella che collega Saint-Jean-de-Maurienne a Lione. Ecco, quindi quando si parla di Torino-Lione si deve considerare... Sì, non è solo il tunnel, hai ragione. Esatto. Quindi questo, io credo, gli scenari sono due, molto concretamente. Se ci sarà un ripensamento su questo progetto di tratta internazionale, che è un progetto già ratificato, già finanziato al 40% dall'Europa, vuol dire che l'Europa da qui al 2019 ci ha già messo 819 milioni di euro. E quindi se la Francia deciderà di sfilarsi da questa partita, dovrà farlo alla luce di una serie di conseguenze, naturalmente, no? Parliamo di un accordo, di una fase esecutiva, di un accordo bilaterale, di un qualcosa che è diventato legge, di finanziamenti che sono già stati erogati, quindi parleremo probabilmente di penale e di quant'altro se questo sarà. Se invece il ripensamento a cui si è riferita la ministra è una cosa probabilmente diversa, come io credo, come io sono convinta effettivamente, e cioè si riferisce all'intera realizzazione della Torino-Lione, quindi la tratta italiana. Tieni conto che questa è una cosa importante, che la nostra tratta italiana, quella che è in fase ancora di progettazione preliminare, quindi siamo ancora nelle fasi iniziali di pensare cosa realizzare dopo Susa per fare un collegamento ottimale con Torino e non avere questo tunnel inutilizzato come, sì, come un'opera nel deserto, insomma, no? Come un totem nel deserto. Ecco, lì noi abbiamo già fatto un lavoro di revisione radicale dei progetti. Non pensiamo più a realizzare un'opera intera, ma ad adattare e a potenziare le reti esistenti, e quindi con un costo che è sceso da 4 miliardi a 1,7. Quindi questo lavoro in realtà sul fronte italiano in parte l'abbiamo capito. Fatto. È probabile che la Francia vada in questa direzione. E quindi voglia ripensare anche ai costi, non solo del tunnel, ma del collegamento appunto da Saint-Jean-de-Maurienne a Lione. Grazie per la chiarezza a Filomena Greco del Sole 24 Ore. Noi ci sentiamo domani, torna la classifica, ci mancherebbe, la poco invidiabile classifica. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare. We'll be right back.